Radio Virus presenta Rosa di Sera. Da tavolo transfemminista queer Macao, Carlizia, la vocina che ti vizia, legge favole per diventare di tutti i colori che volete. Mai e poi mai, di Adela Turin. C'era una volta un re, una regina e la loro figlia, una principessina bionda e bellissima di nome Camelia. Al castello c'era chi diceva che i suoi capelli sembravano d'oro e chi diceva che sembravano di miele. Chi diceva che i suoi occhi erano due turchesi e chi diceva che erano due acque marine. La zia Iris, per esempio, diceva: Camelia, capelli d'oro, sei la più bella di tutte. Con simili occhi e simili capelli avrai l'imbarazzo della scelta. I principi più belli, i più gentili e i più ricchi chiederanno la tua mano. E donna Alda, un'amica della regina, aggiungeva: l'avvenire di Camelia è assicurato ai più begli occhi e i più bei capelli del mondo. Ma la regina era una donna pratica. Ripeteva: Camelia, stai diritta, pettinati, non rosicchiarti le unghie, metti i vestiti che ti ho comprato, sorridi e parla poco. Potrai scegliere un principe e, se mi ascolti, sposerai il più ricco. Quando era sola con la sua amica Margherita, la regina era meno ottimista. A bassa voce, le due donne si dolevano dei grandi piedi di Camelia, del suo profilo marcato, della sua mancanza di tatto e dei suoi modi bruschi. Camelia aveva un'amica, Clarissa, una maga. Clarissa aveva qualche anno più di lei ed era bellissima, come la maggior parte delle maghe, checché ne dicano le male lingue. Clarissa era stata relegata in un torrione del castello e si faceva vedere molto di rado nel salone. I tre medici di corte, incaricati di vigilare sull'ipertensione del re e sui reumatismi della regina, la detestavano. Clarissa era troppo sapiente, le sue pozioni e i suoi unguenti erano troppo efficaci, la sua risata troppo ironica. Camelia e Clarissa erano sempre insieme nel torrione. Leggevano, facevano lunghe passeggiate, cucinavano, ridevano a perdifiato. Un giorno Camelia disse all'amica: Clarissa, che cos'è questa storia di un principe bello, ricco e gentile che sta arrivando per chiedere la mia mano? Tu ne hai già visti di principi così? Sembra che ce ne siano, rispose Clarissa, ma tu lo sai, i principi non sono davvero il mio forte. Camelia si guardò intorno. Suo cognato, il marchese di Castellaccio, che rideva come un imbecille e non parlava che dei suoi cani. Il barone di Roccapelata, marito di sua cugina Violetta, che la teneva rinchiusa per correre dietro a tutte le ragazze. E il vecchio principe della Torre Sgorbia, certo ricchissimo ma brutto, lamentoso, burbero. Camelia si preoccupava un po', ma si diceva che, anche se ce ne fosse stato uno solo così perfetto, lei l'avrebbe certamente conquistato, se quello che si diceva dei suoi capelli d'oro e dei suoi occhi di turchese era vero. Così un giorno chiese a Clarissa: «Tu mi trovi bella?» «Oh sì!» le rispose Clarissa con entusiasmo. «Mi piacciono la tua pelle di albicocca, le tue spalle da nuotatrice, la tua voce grave. E mi piacciono i tuoi occhi che brillano di umorismo, il tuo naso imperioso, il tuo modo di camminare.» Camelia ne fu commossa. Nessuno le aveva mai parlato di tutte queste perfezioni. Una sera il re, dopo aver tossito e imbarazzato, annunciò con aria solenne: «Camelia, ascolta il tuo vecchio padre. Il principe di Gorgonzola ti vuole in moglie. Me l'ha detto suo padre, che è un buon re e possiede un prospero caseificio. Martedì vengono per parlare della tua dote.» E la regina aggiunse: «Camelia, metterai il vestito lilla e le scarpe con i tacchi. Non morirai se avrai male ai piedi per un'ora o due. Ti pettinerò io come si deve. E fai in modo di parlare il meno possibile. Sembra che il ragazzo non sia un'aquila, ma in compenso è molto bello e pieno di formaggi.» Il principe di Gorgonzola arrivò con il vestito della domenica e le scarpe lucide, insieme a suo padre. Era davvero bello, timido, piuttosto piacevole. Il padre di Camelia e il re di Gorgonzola parlarono per ore di formaggi e di dote, e la sera Camelia, con i piedi dolenti e un anello al dito, corse da Clarissa. «Infatti è molto bello e persino simpatico. Ma io non andrò a Gorgonzola con lui. Io voglio vivere con te.» Quindi si sfilò l'anello e lo gettò lontano. Senza dir parola, Clarissa lo raccolse e se lo mise in tasca. Quando l'indomani mattina la regina si accorse che Camelia non portava più l'anello, fu sul punto di svenire. Con aria innocente, Camelia disse che l'aveva perso. «Che cosa stai dicendo, disgraziata? Non lo sai che un anello di fidanzamento perso porta male? Non si può perdere un anello di fidanzamento. Bisogna assolutamente ritrovarlo. Cercate questo anello presto!» gridò il re senza ben sapere a chi. «Avete 24 ore per riportarmelo!» Camelia corse a descrivere la scena a Clarissa, che stava versando in alcuni barattoli il miele delle sue api. Clarissa ascoltò, poi tirò fuori l'anello dalla tasca e lo lasciò cadere, solenne, nel barattolo che stava riempendo. L'anello sprofondò lentamente e scomparve nel miele dorato come se vi si fosse dissolto. Al castello si cercava febbrilmente l'anello. Sotto i mobili, sotto i tappeti, dietro i tavoli. Il re di Gorgonzola telefonava ogni giorno per fissare la data delle nozze e bisognava trovare ogni giorno un nuovo pretesto per rimandarla. Esasperato, una sera il re disse alla moglie: «Ascolta, Prudenza, un anello ne vale un altro, compriamone uno uguale, non diciamolo a nessuno e che non se ne parli più. I Gorgonzola sono capaci di rompere il fidanzamento se la facciamo troppo lunga, non si sa mai. Rifletti, dove li troviamo altri tanti formaggi da far sposare a Camelia, eh?» Ma la regina non cedeva. ma non capisci proprio niente. Se ti dico che perdere un anello di fidanzamento porta male, porta scalogna, mena gramo, porta iella. Allora il re prese in mano la situazione. Che si guardi nell'imbottitura delle poltrone. Un esercito di tappezzieri si stabilì nel castello per sventrare poltrone, sedili, divani e sgabelli, senza ritrovare l'anello. Il re dormiva sempre peggio e faceva sogni agitati e confusi che lo incuriosivano. Quando in sogno vide due arieti verdi che giocavano a scacchi sopra un grande piano, chiamò Clarissa e le chiese l'interpretazione. Seria come un papa, Clarissa decretò: Ariete, piano, verde... È chiaro! L'anello si trova in un materasso di lana o in un piumino. Un battaglione di materassaie e materassai si accampò nel cortile del castello scucendo cuscini e capezzali, cardando montagne di lana, cantando e bevendo, riempendo l'aria di batuffoli, senza ritrovare l'anello. Qualche giorno dopo, il re si svegliò di soprassalto. Aveva sognato i suoi defunti genitori che ballavano in abiti succinti nel salone principale del castello, mentre lui stesso, bambino, mascherato da pirata e con i trampoli ai piedi, accendeva ceri che pendevano a grappoli dal soffitto. Clarissa l'ascoltò attenta e gli diede, senza ridere, la chiara interpretazione. Infanzia, antenati, salone, ceri, di certo l'anello è in una candela. Tutte le candele del palazzo furono fuse in immense pignatte e la cera fu filtrata. Invano. Clarissa si fece raccontare il sogno ancora una volta e disse: «Ah, che sciocca che sono! Ballo, trampoli, ceri! L'anello è nella fodera o nell'orlo di un vestito!» Decine di sarte e di sarti, la bocca piena di spilli, scucirono e ricucirono gli abiti di tutta la corte, scambiando le maniche e rovinando i colli. Rivestiti, i cortigiani sembravano un mucchio di barboni, ma dell'anello nessuna traccia. Per la terza volta, trattenendosi dal ridere, Clarissa si fece raccontare il sogno. «Vedo un'altra possibilità», disse. «Ballare in abiti succinti. L'anello è in fondo a un pozzo». Una squadra di speleologi scese, con scale di corda, in tutti i pozzi del reame. Inutilmente. Il re fece altri sogni che lo portarono, grazie a Clarissa, ai libri della biblioteca, alle conserve della dispensa, alle carpe dello stagno, alla paglia del pollaio, al lampadario dell'anticamera, al formaggio della cantina, al cucù del salone. Una notte, infine, sognò di essere appollaiato su un albero e di mangiare gelato al pistacchio con un enorme cucchiaio d'argento, mentre un coniglio gigante dormiva sotto una tenda grigia. «Questa volta ci siamo!» disse Clarissa, faticando a restare seria. «Albero, pistacchio, argento, grigio. L'anello è in giardino!» L'indomani si sradicarono le piante, gli alberi e le siepi. Si rivoltò la terra dei prati, la si passò al setaccio, dell'anello neanche l'ombra. Dall'inizio delle ricerche, Camelia era fuggita da Clarissa, che scriveva con fervore un'interpretazione dei sogni che psicologi e psicanalisti studiano ancora nella traduzione del dottor Freud. Il castello era ormai ridotto male, i mobili sgangherati, il giardino pelato, i pozzi inquinati, i lampadari di sghimbescio, i formaggi grattugiati, la conserva ammuffita, i libri squinternati, i cortigiani infagottati come pagliacci. E fu allora che, preoccupati, i Gorgonzola arrivarono un mattino. Dalla torre Camelia li vide entrare e uscire un minuto più tardi gridando e gesticolando. Tirò un respiro di sollievo e riprese la lettura. Dopo aver distrutto il suo castello e speso tutti i suoi soldi, il re diede fondo a quelli di sua moglie e alla dote di Camelia. Poi vendette la fabbrica di pompe di bicicletta ereditata da suo padre e finì povero in canna. Clarissa e Camelia vivono in riva al mare. Camelia restaura oggetti d'arte, Clarissa scrive romanzi polizieschi. Nel torrione del castello abbandonato c'è ancora un barattolo di miele con in fondo un anello d'oro. Dentro all'anello c'è scritto Camelia e Gorgonzola, ma nessuno lo sa. Avete ascoltato Rosa di Sera, favole per diventare di tutti i colori che volete. Per contattarci scrivete a rosadisera@autoproduzioni.net. Rosa di Sera, su Radio Virus, il lunedì e il giovedì alle 21:00.